è una parola, o ti chiamarmi il re. Perché? Perché sei più perfido ancora e mai più desco il frutto, un traditore, un furbo, un sedutore. L'ingiuria dei viventi, il rosso del tuo sesso. Hai più che dirmi, gli ha fiato adesso. Non posso più frenarmi, anima mia, è qui tuo caro. Dunque io mi ho caso e disperata fatto, ebben, una crudele, vedi, come innanzi agli occhi tuoi mi passa il cuore. Che fa? Già vivrà il colpo, grata, addio. Afferma, non fermi, vedi, non mio. E tu credevi, o bella, che io mi diri, dergi, pur quel pianto non era l'amor mia, eroico tanto. A furba me fatta. Ma morrotta, ma tu. Taci, continua, porgimi la tua mano, e trovi un uomo che di pronto sognevo ha bisogno nel seno, e l'alma agitata. Son pronto al tuo volere, per sollevarti, o cara, per divertirti ancora, bella regina, ti condurrò, se vuoi. Signora Latina! Se mi affronto, ma più non ti hai di anime di stro, se nel conte, io non fa la rovina. Che mi arrina in amore fidelio, a tua segnata cede a sposo l'indoro, e si ha tenuto al così amaranto, allora mi ho giurato, e per il conte poi, basta, ho pensato. Di figli non averla bestia ancora. Io lo ritroverò, ma se l'indoro non ti ama, e se tu stessa lo sprezzi lo detesti, ogni arte osar dovresti. A ciò di Gefileno si innamori e un dì tuo sposo sia. Non sa chi io l'amo, ma come se il cielo è innamorato morto? Cieli ad altri credi, ho donato il cuore. Ma come sorpresa, io ti ringrazio, amore. Devi lasciare al fin quella fierezza con cui entrati in amore. Sempre serioso